Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Sull'inserto culturale del Sole 24 Ore, Claudia Gualdana traccia una breve storia della rosa antica. La rosa è donna. Eva Spina, Maria Rosa, diceva San Bernardo di Clairvaux. Gertrude Stein l'ha ricordata 3 volte sulla sua tomba a Parigi. Una rosa è una rosa, è una rosa. Per il suo giardino di Sissinghurst, la scrittrice inglese Vita Sackville West volle gli esemplari più belli. Le galliche rosso carminio e porpora amate dai greci, le damascene dal profumo intenso, coltivate in Persia prima di Omero, e le più recenti muscosa, quasi senza spine. Classificazioni botaniche sconosciute ai profani, ignari dell'epopea plurimillenaria della rosa antica, che è un sinonimo di ricercatezza riservato a chi ha la pazienza del collezionista, perché questi prodigi della natura si trovano in pochi vivai selezionati. Le si ammira nelle loro infinite varietà, dalle alba bianche e rosa tenero alle semplici botaniche, passando per le centifoglia, le rose dei pittori care ai fiamminghi e le cinesi rifiorenti, arrivati in Europa dopo il 1750 nei più bei giardini pubblici del continente. Al Museo della Rosa Antica di Modena o nei giardini della Landriana vicino a Roma, alla Royal National Rose Society Gardens a St. Albans in Inghilterra o tra le verdi architetture del Roseraie du Val-de-Marne in Francia. Oppure nei giardini privati di donne molto speciali. Ai corsi di potatura di Anna Peyron, raffinata vivaista sabauda, si incontrano signore aristocratiche della borghesia colta, come il vice direttore di Vogue, Ariela Goggi, che nel suo giardino coltiva le opulenti Bourbon e le Portland, dal nome della duchessa che dall'Italia meridionale le portò in Inghilterra nel 700. La rosa moderna nasce nel 1867 con il primo ibrido di Thea, capostipite di quelle a gambo dritto e dai colori accesi che conosciamo oggi. E solo pochi decenni più tardi gli eletti ritornano alle antiche, a partire da Gabriele D'Annunzio e da Rainer Maria Rilke. Non solo per distinguersi dal gusto plebeo per il nuovo, perché amare la rosa antica significa amare la storia. È ricordare le fatiche di Plinio il Vecchio, che ne classifica 12 specie e dice di aver visto un soldato romano guarire dalla rabbia grazie alla rosa canina. È ammirare la bellezza di Afrodite, nata dalla spuma del mare accompagnata da un ceppo di rose bianche, e celebrare l'isola di Rodi, da Rodon, rosa, in greco. Virgilio, nelle Georgiche, canta la bellezza di quelle di Pestum, le rose dei romani, poiché nell'urbe si usa gettare petali per le strade quando tornano i condottieri vittoriosi. Anche a Nerone piace spargere i petali, soprattutto durante i banchetti. Proprio come l'imperatore Elio Gabalo, che una volta eccede di misura soffocando alcuni ospiti. La rosa ricorda troppo gli eccessi della decadenza romana per piacere ai cristiani, ma il suo declino dura poco. Lo scorso 23 maggio, dal lucernaio del Pantheon di Roma, sono piovuti petali di rose rosse. Era il giorno di Pentecoste, la Pasqua delle rose, e il rito risale all'alto Medioevo. I petali, simbolo delle lingue di fuoco con cui lo Spirito Santo si manifesta agli apostoli, cadevano mentre il Papa benediva i fedeli dopo l'omelia e il coro intonava il Veni Creator Spiritus. La rosa rossa è anche il simbolo della passione di Cristo. Ciò nonostante, in ricordo della guerra delle due rose, lo è anche dell'Inghilterra. Eppure, per cultori e non, in fondo da sempre, da molto prima dei poeti moderni, più di ogni altra cosa, la rosa è la donna e l'amore. Profano e cortese, come insegna il Roman de la Rose, oppure sacro, come spiega Bernardo di Clairvaux. Maria è la rosa, perciò per pregarla si recita il rosario. Libri interi non basterebbero a raccontare l'incanto che la regina dei fiori esercita da sempre sugli uomini e in modo particolare sulle donne. Si dice che una donna non si tocca neanche con un fiore, ma se la si ama, guai a non regalarle una rosa, purché si badi di sceglierne un'antica, se la signora è di buone letture e si distingue dalla massa. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Claudia Gualdana dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. A corredo dell'articolo si possono trovare anche le indicazioni sui principali musei e vivai dedicati alla rosa antica. Nel suo libro Val più la pratica, Andrea De Benedetti cataloga gli errori grammaticali più diffusi a beneficio di quelli che lui ha ribattezzato i neocrusk, ovvero i puristi della lingua italiana. E uno degli errori più comuni è certamente la cattiva abitudine di raddoppiare i pronomi. Certo, quello di raddoppiare i pronomi è un bel viziaccio. E mica succede solo con a me mi. Nella parlata toscana esiste addirittura la duplicazione del soggetto di seconda persona. Te tu fai, te tu sei, te tu c'hai. Mentre in italiano il pronome soggetto è spesso inutile. Le informazioni sulla persona le fornisce già la desinenza verbale. Loro ne usano addirittura due in una volta. Un bello spreco, se ci pensate. Del resto, parlando di sprechi e di pronomi, non è che l'italiano parlato sia messo tanto meglio del toscano. Sapete qual è uno dei vocaboli in assoluto più usati nella nostra lingua? Io. Un altro pronome soggetto. Il lessico di frequenza dell'italiano parlato, pubblicato nel 1993, lo dava in 11ª posizione in graduatoria, superato soltanto da articoli e preposizioni. Ed è ragionevole supporre che nel frattempo, individualisti come siamo diventati, la situazione non sia mutata. Anzi, per questo, quando sento i neocrusk lamentarsi di come vengono utilizzati i pronomi italiani, mi viene sempre da rispondere che il vero problema dei nostri pronomi non ha nulla a che fare con la grammatica, ma al massimo con la psicanalisi. I pronomi, loro, sono creature discrete e inoffensive. Piccoli e laboriosi si nascondono nelle pieghe delle frasi, talora persino nei risvolti delle parole, e operano silenziosamente per il bene della sintassi e della coesione del testo. I pronomi sono qualcosa di simile a dei parassiti buoni della lingua, che si nutrono per lo più di significati altrui, ma nello stesso tempo aiutano l'organismo del testo a non sgretolarsi o addirittura a irrobustirsi. Qui non si tratta però di difendere la dignità biologica e l'utilità pratica di questi minuscoli invertebrati. Qui si tratta di scardinare l'idea, vagheggiata dai neocrusk, che l'ecosistema pronominale debba essere preservato così com'è, anzi così com'era formulato nelle teorizzazioni integraliste dei puristi ottocenteschi. Ho parlato di teorizzazioni e non di prassi perché non vorrei si pensasse che nell'Ottocento i pochi parlanti usassero i pronomi personali come sarebbe piaciuto ai puristi. Nulla di più fuorviante. Non li usavano così i parlanti e spesso non li usavano così neppure gli scrittori, a cominciare da Manzoni, che nella seconda edizione dei Promessi Sposi aprì le chiuse del bon ton stilistico e inondò il romanzo di lui, lei e loro usati come soggetti. Al di là delle vicissitudini storiche, capirete che un ecosistema del genere, frutto di un esperimento di laboratorio più che di un processo di selezione naturale, avrebbe potuto resistere solo in uno stato di perfetto isolamento o grazie alla criogenia. Siccome invece la lingua non si lascia ibernare e tantomeno chiudere dentro un recinto, è successo che alcuni pronomi sono sfuggiti al controllo dei tanti dottor Frankenstein che li avevano in custodia e si sono rimessi a gironzolare, famelici e randagi, fuori dal laboratorio. Il risultato è che, nello scritto anche, lui ha ricominciato a insidiare egli, lei a dar la caccia a ella, loro a mettere in fuga essi e esse, gli a marcare il terreno su cui pascolava loro e in parte anche le. La natura, del resto, sa essere ben spietata quando vuole. Prendete la coppia egli-lui. Stando alle teorie dei neocrusk, il primo andrebbe utilizzato come soggetto, mentre il secondo dovrebbe essere riservato a tutti gli altri casi. Ora, se le cose stessero veramente così, egli non avrebbe di che preoccuparsi per la propria incolumità, se non che egli non è affatto autosufficiente come pronome soggetto e in diverse circostanze la sua inadeguatezza lo costringe a farsi sostituire da lui. Nessuno, ad esempio, direbbe o scriverebbe mai «me lo ha detto egli» o «è stata ella». Non è soltanto che si tratti di errori, è che sono frasi agrammaticali, espressioni, cioè completamente inaccettabili, che nessun italiano madrelingua potrebbe riconoscere come appartenenti al proprio codice. La regola, perché in questo caso, se Dio vuole, ce n'è una, è che quando il soggetto è posposto al verbo e aggiunge un elemento nuovo all'informazione, si può utilizzare soltanto il pronome obliquo lui, lei o loro. Il fatto preoccupante è che egli, oltre alle moltiplicazioni, non sa fare nemmeno le addizioni. Provate a scrivere «io e egli» oppure «egli e sua sorella si volevano bene». Un pugno nello stomaco, no? E provate a confrontare l'accettabilità di frasi come «lui è sempre lui» e «egli è sempre egli». Lotta impari, è vero? E ancora, se non siete soddisfatti, provate a rispondere «egli» a uno che vi chieda «chi ha ucciso il marito della baronessa?». Tragicomico. Tutto questo per dire che egli è davvero un pessimo soggetto. Non perché abbia ucciso il marito della baronessa, ma perché non sa fare in modo decente neppure il proprio mestiere. Quanto detto per egli vale naturalmente anche per ella e per la coppia essi-esse. La morale della fiaba è comunque una sola. Quando una lingua dispone di due forme concorrenti per una stessa funzione, tende a prevalere quella più duttile. È quello che capita di fare anche a voi quando avete due robot da cucina di cui uno trita in pasta e centrifuga qualunque ingrediente e l'altro serve solo a passare le patate. Alla fine userete sempre il primo e dimenticherete il secondo in fondo all'armadietto, fino a quando non deciderete di buttarlo. In casa lo spazio è quello che è. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Andrea De Benedetti, Val più la pratica, piccola grammatica e morale della lingua italiana. La Terza Editore, 180 pagine, 14 euro.